Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: torneremo sulla vicenda Fincantieri e siamo riusciti a raggiungere, sempre che non cambi idea all'ultimo minuto, il sindaco di Castellammare di Stabia, che sarà nostro ospite, addirittura ha chiesto l'intervento dell'esercito. Tutto questo in attesa, però, lo dico, dell'incontro del 3 giugno tra il ministro Romani, i vertici di Fincantieri e anche i sindacati. Questo per quello che riguarda la cronaca, diciamo, più stretta. Per quello che riguarda invece i mercati finanziari, segnalo come Milano oggi fa meglio delle altre borse europee e fa meglio grazie soprattutto ai titoli bancari. Banca Intesa soprattutto fa notizia, al terzo giorno di aumento di capitale sale di oltre il 5%, 5,1%, molto bene anche la Popolare di Milano, più 4,23, UbiBanca più 3,20, Banco Popolare più 2,60, Unicredito più 2,5, Mediobanca più 1,60. Bene Fiat, dopo l'effetto Chrysler. Marchionne, lo ricordo, ha detto che entro fine anno salirà al 51%, confermando quella che era un'anticipazione dei mesi scorsi. Fiat più 3,33%, ancora tra i titoli non bancari Prismian più 1,70, Mediobanca più 1,60 e A2A più 1,30%. Chi è negativo oggi sul listino? Di Asorin meno 0,70, Ansaldo meno 0,72, Ansaldo STS, Finmeccanica meno 0,60. Euro sotto quota 1,41, 1,40,77. Le altre borse europee guadagnano, nel caso di Parigi e Francoforte, lo 0,3%, nel caso di Londra lo 0,2%, gli Stati Uniti più 0,17%. Partiremo anche dal rapporto dell'INPS diffuso oggi dal Presidente. Con maggio, con fine maggio e giugno iniziano le grandi assemblee. Domani, vi ricordo, sarà la volta dell'assemblea di Confindustria e tra l'altro l'ultima assemblea di Marcegaglia come presidente operativo. Avremo anche uno speciale domani mattina intorno alle 10.45 per ascoltare quello che sarà l'intervento della presidente di Confindustria alla presenza del Presidente della Repubblica. Prima volta che interviene il Presidente della Repubblica in un'assemblea degli industriali. 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevo, parleremo di INPS, poi di borsa, poi della vicenda Fincantieri, nella seconda parte del programma di un'altra storia italiana, la Bormioli Rocco, che ha visto venerdì scorso l'ingresso di un fondo straniero a rilevare il capitale, e poi parleremo di fisco con i commercialisti italiani, perché oggi c'è l'assemblea annuale dei commercialisti ragionieri contabili. Sarà nostro ospite il presidente Claudio Siciliotti, alla luce anche di quanto ha detto 3 giorni fa il ministro Tremonti sulla ganasce fiscali che vanno un po' allentate, tutto il tema di Equitalia, della vessazione fiscale, assieme però anche all'evasione fiscale. Rapidamente le altre notizie in breve. Oro in ribasso in Asia a $1,522, comunque siamo sempre su livelli molto molto forti. Il petrolio invece resta sotto i $100, a $99 al barile a New York. Nel frattempo, sul fronte dell'economia internazionale, Christine Lagarde, quindi il ministro dell'economia francese, ha ufficializzato la propria candidatura alla direzione del Fondo Monetario Internazionale, mentre permane la perplessità, per essere buoni, se non l'opposizione dei BRICS, ossia delle economie a maggior tasso di crescita. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica hanno detto di essere preoccupati di fronte alla possibilità che sia di nuovo un europeo a guidare il Fondo Monetario Internazionale dopo Strauss-Kahn. Interessante come votano i vari paesi dentro il Fondo Monetario. Nel caso dei paesi europei i voti pesano per un 27, l'Italia al 3, Canada, Australia e Svizzera, potenzialmente alleati dell'Unione Europea, hanno 10 voti, in realtà il peso di questi voti, l'America 17, Giappone 6, i BRICS 10. Mentre l'agente di rating Fitch torna sul caso greco e dice che se dovesse essere ristrutturato il debito greco vi sarebbero alti rischi di contagio per le banche tedesche, il futuro presidente della Banca Centrale Europea, attualmente governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha detto a Berlino che la Banca Centrale Europea ha risposto alla crisi molto bene, in modo molto efficace e tempestivo. Draghi ha anche aggiunto che l'inflazione potrebbe minare la solidità della crescita economica in Europa e seri rischi sulla crescita economica stanno arrivando dalla crisi del debito. E poi ha lodato la Germania, forse un atto dovuto, dicono i più maliziosi, visto che i tedeschi fino all'ultimo sono stati un po' freddini sulla nomina di Draghi a presidente della Banca Centrale Europea. Draghi ha detto la Germania può essere un modello economico e sociale, del resto la sua economia è l'unica fra quelle avanzate a registrare una crescita davvero robusta. L'OCSE, l'organismo che ha sede a Parigi, definisce moderata la ripresa a livello mondiale, alta la disoccupazione. Per l'Italia la crescita è lenta e l'occupazione non decolla. L'Italia deve mantenere la vigilanza sui conti pubblici. Il segretario generale dell'organizzazione, Angel Gurria, ha detto nonostante quello che ha fatto e quello che ha deciso Standard & Poor's, cioè che ha messo sotto osservazione il debito italiano, la nostra valutazione sul debito italiano resta invariata, una posizione identica a quella che ha ribadito il capo economista e vice segretario generale dell'OCSE Piercarlo Padoan, intervistato dalla collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Giuliana Licini. Ascoltiamo. Il nostro giudizio rispetto a quello espresso due settimane fa non cambia, non è successo niente di nuovo. Il giudizio di Standard & Poor's per l'Italia segue il giudizio che agenzie di rating hanno dato sul debito degli Stati Uniti e segue il giudizio che a ripetizione queste agenzie di rating hanno dato sui paesi in crisi del debito. Continuo a pensare che le agenzie di rating siano dietro la curva e qualche volta, piuttosto che oltre la curva e che quindi guidino, non guidano ma si fanno guidare. La ragione per cui Standard & Poor's ha deciso questa mossa mi è sconosciuta, ma ripeto, dal nostro punto di vista non c'è nulla di cambiato. Il governo in questi giorni sta parlando in modo ancora informale di misure di aggiustamento da qui al 2014, non sono novità, sono cose che noi riteniamo importanti per azzerare il deficit e quindi migliorare ulteriormente la sostenibilità del debito. È vero, ma questo l'abbiamo detto due settimane fa e lo diciamo da tempo, che la crescita dell'Italia rimane troppo bassa e questo è un problema che va aggredito alla radice, ci sono problemi strutturali che l'Italia deve superare per ritornare a crescere un po' di più. I problemi strutturali si sintetizzano nella bassa crescita della produttività, la quale a sua volta ha molte cause, gli impedimenti alle imprese che rimangono troppo piccole e che quindi investono assai poco in innovazione, il costo dell'energia, i costi amministrativi, il fatto che tutto sommato il nostro sistema di istruzione produce sempre meno la qualità di capitale umano di cui si avrebbe bisogno. Tutte cose importanti che richiedono tempo per essere affrontate, ma che vanno attivate prima o poi. Ancora due notizie in breve, poi passiamo al primo tema. Per quello che riguarda i conti pubblici, il sottosegretario dell'economia Luigi Casero, a margine dell'Assemblea Nazionale dei Commercialisti, di cui parleremo più avanti, ha confermato che una manovra spalmata su tre anni da 40 miliardi ne arriva a fine giugno. I 40 miliardi devono servire a portare il deficit a zero per quello che riguarda il 2013. Ancora non è chiaro però come verranno spalmati. Da quello che dalle indiscrezioni di ieri sembrerebbe che insomma la parte più consistente della manovra arriverà più avanti, verso il 2013. Ripeto la nostra piccolissima valutazione, manovre così forti in periodi elettorali sono molto a rischio, però insomma questo lo vedremo a metà giugno quando sarà presentato la manovra al Consiglio dei Ministri con il decreto. Il dato di oggi invece riguarda di Fincantieri, a chi scrive dico che parleremo fra 20 minuti, il dato di oggi riguarda invece le vendite al dettaglio nel mese di marzo. E il calo è pesante, meno 2% al lordo dell'inflazione, quindi un dato ben più pesante se sommiamo anche l'inflazione, le vendite al dettaglio a marzo rispetto al marzo del 2010, è il calo più forte dal gennaio del 2010. E praticamente va male soprattutto il comparto alimentare, meno 2,6% su base annua, l'abbigliamento meno 2,3%, gli elettrodomestici invariati, i mobili meno 2,3%, e ancora cosmetica meno 1%, libri e riviste meno 2,5%, personal computer e cellulari meno 2%. Interessante, ne parleremo venerdì con il numero uno di Coin, Stefano Beraldo. Interessante, adesso capite perché. Il fatto che vadano peggio i grandi magazzini, la grande distribuzione, soprattutto gli ipermercati, meno 4%. Comunque la grande distribuzione va peggio rispetto ai piccoli negozi, meno 2,2 la grande distribuzione, meno 1,8 invece i piccoli negozi. 349-238-6666 per i vostri sms. E adesso subito i conti dell'INPS. L'INPS che oggi, presentando i conti, fa notare come la crisi economica abbia pesato anche sui risultati del 2010, perché a fronte di 281 milioni di entrate vi sono state 280 milioni di uscite, però l'INPS mantiene un attivo, un avanzo, 1 miliardo e 400 milioni, è in calo rispetto al 2009, quando l'avanzo era di 5 miliardi e 240 milioni di euro. La differenza tra quanto l'INPS ottiene da chi versa i contributi e quanto l'INPS deve dare per pagare le pensioni. Resta un avanzo, ma si è fortemente ridotto del 70%, 1 miliardo e 400 milioni. E poi che tipo di pensioni vengono erogate dall'INPS? Oltre 8 milioni di pensioni, cioè la metà del totale, sono inferiori ai 500 euro al mese. Uno vuole collegare quanto abbiamo appena detto sulle vendite al dettaglio nel mese di marzo, forse capisce che la crisi dei consumi c'è tutta, al di là delle interpretazioni politiche. Meno di 500 euro al mese per 8 milioni di pensionati, la metà del totale. Se si va a guardare le pensioni complessivamente inferiori a 1000 euro al mese, che insomma potremmo dire una soglia proprio minima, beh, sono l'80% del totale. Pensate, praticamente si arriva a 14 milioni di pensionati su 16 milioni in totale. E non è un caso, purtroppo anche questa volta le più svantaggiate sono le donne. Le percentuali di assegni bassi aumentano al 61%, quindi se si va a guardare chi ha meno di 500 euro, e vanno e schizzano al 91% in chi ha meno di 1000 euro, quindi 10 punti in più rispetto a alla media e quasi 20 più punti in più rispetto ai colleghi o ai pensionati maschi. Il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, è intervistato dal nostro Andrea Viali a margine della presentazione del rapporto. I dati sono sulle pensioni e non sui pensionati, perché in Italia abbiamo 16 milioni e mezzo di pensioni e 14 milioni di pensionati, quindi le cifre sono da ripartire su meno persone, quindi la cifra è più alta. Sicuramente questo è il livello delle pensioni, di alcuni tipi di pensioni, ma ricordo che tantissime pensionati riceve una, due o addirittura più pensioni. E questo spiega perché la situazione sia meno preoccupante, leggermente meno preoccupante di quanto il dato secco possa dire. È chiaro che vedove, vedovi e non solo ricevono nelle famiglie più di una pensione, però insomma, e anche per chi riceve pensioni da diversi soggetti per diverse prestazioni. Però attenzione, insomma, 80% delle pensioni sono sotto i 1000 euro. Un vero e proprio boom poi nel 2010 delle pensioni di anzianità, più 73%, sono stati liquidati 174.000 trattamenti a fronte dei 100.000 registrati nel 2009, e la crescita ha seguito un anno, il 2009, nel quale per via del passaggio dei requisiti da 58 a 59 anni a fronte di 35 anni di contributi, il numero delle pensioni di anzianità nel 2009 era stato molto molto basso. E nel 2011 si prevede un nuovo calo. Perché? Perché nel 2011 scatterà il nuovo scalino da 59 a 60 anni e con questa finestra mobile si prevede che meno persone potranno andare in pensione, diciamo, rispetto alla vecchia regola nel 2011. L'età media per andare in pensione l'anno scorso è stata di 58,3 anni per i lavoratori dipendenti, di 59 anni per gli autonomi. Lo stesso Mastrapasqua, sempre intervistato dal nostro Andrea Viali, ha ricordato che tra 4 anni scatteranno meccanismi automatici per adeguare l'età del pensionamento. L'età pensionabile con la riforma dell'anno scorso si è resa automaticamente allungabile. Ricordo che dal 2015 parte la riforma che aggancia l'età pensionabile all'aspettativa di vita in base a dei parametri oggettivi automatici, quindi come ho detto nella relazione non ci saranno più trattative, estenuanti o quant'altro. Automaticamente l'Istat certificherà di quanto si vive di più e automaticamente questo dato sarà recepito nell'allungamento dell'età pensionabile e quindi della vita lavorativa attiva. E poi i giovani, Mastrapasqua sulle iniziative dell'INPS a favore dei giovani. Qui c'è un dato anche importante sui bassi contributi che vengono versati da molte forme contrattuali, Coco Pro di una volta, insomma i lavoratori interinali. Comunque sentiamo Mastrapasqua prima. Il futuro dei giovani nel sistema previdenziale adesso è riferito alla loro capacità di capire il sistema. In questo oggi comincia questo ciclo didattico nelle scuole, poi andremo all'università, quindi tutto quello che serve per far conoscere il sistema, per poi insegnare il sistema contributivo, far sì che ognuno capisca che ha un salvadanaio previdenziale nel quale mettere i soldi che alla fine potrà rompere nel momento in cui andrà in pensione e troverà i suoi soldi ovviamente rivalutati che saranno la sua pensione. È cambiato un sistema, è cambiato da quest'anno, piano piano si sta evolvendo, dobbiamo spiegarlo perché l'informazione è un dovere delle istituzioni. Le reazioni. Allora, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta ha detto: non è vero che il paese è allo sfascio, ha tanti problemi, ma se li sapremo affrontare ognuno con responsabilità il nostro paese ne uscirà e ne uscirà bene. E poi il ministro del welfare Sacconi, sempre intervistato dal nostro Andrea Viali, dopo la presentazione del rapporto dell'INPS, appunto, del presidente Mastrapasqua, così ha commentato. La relazione del presidente Mastrapasqua descrive un sistema di previdenza pubblica stabile, sostenibile, quale risulta dalle riforme anche recenti che abbiamo realizzato e che è riconosciuto come tale da tutte le agenzie internazionali, dalla Commissione europea al Fondo monetario all'OCSE. La stabilità è un presupposto importante e a questa stabilità si unisce quella dei fondi della previdenza complementare che questa mattina nell'assemblea dell'autorità di vigilanza abbiamo insieme constatato. Quindi l'Italia ha un sistema a più pilastri, stabili, sostenibili, che devono motivare quanto più le persone, i giovani in modo particolare, ad accantonare contribuzioni sia nella parte obbligatoria che quanto prima anche nella parte complementare. Oggi celebriamo un giorno per il futuro, la prima giornata che ogni anno sarà dedicata alla diffusione della cultura previdenziale, della conoscenza delle opportunità del sistema previdenziale nelle sue varie componenti, da quella obbligatoria a quella volontaria. E poi il commento del segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, sempre raggiunta dal nostro Andrea Viali a margine, alla fine della presentazione del bilancio dell'INPS. La prevalenza delle pensioni erogate è una prevalenza che sta sotto i 1.000 euro, anzi gran parte sta sotto anche i 500. È evidente che poi non ci si può stupire se l'Istat dice che c'è un progressivo scivolamento nella povertà. Non è una preoccupazione di oggi, è l'ennesima conferma del fatto che se non si fa una politica di redistribuzione sui redditi è difficile poi ragionare di futuro. Questa mi pare la contraddizione. La contraddizione di questo rapporto non è sul funzionamento, perché è indubbio che il piano di attività che ha avuto l'INPS, la sua innovazione, il tentativo anche di dentro la crisi mantenere una rapidità di erogazione dei trattamenti rispetto a disoccupazione o fatti positivi. Il nodo vero è che quello strumento, così come oggi, con questa politica di assistenza, accompagna il progressivo impoverimento dei pensionati e delle famiglie. E come già accennava il ministro Sacconi nell'intervista di Andrea Viali, oggi anche la COVIP, che è l'autorità di vigilanza, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, ha presentato i dati. E vale la pena ricordare come gli iscritti siano aumentati del 4,3%, però solo il 23% sono lavoratori. Adesso andiamo, perché vorrei poi rispettare i tempi, visto che c'è il sindaco di Castellammare di Stabia, appunto quello che ha chiesto l'intervento dell'esercito dopo la vicenda Fincantieri. Andiamo in meteo, pubblicità, i mercati e poi l'intervista. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:37, partiamo subito adesso con i mercati finanziari e poi con la vicenda Fincantieri. Allora, più 1,13% alla fine Milano, molto meglio rispetto a Parigi, più 0,30%, Francoforte più 0,28%, Londra più 0,33%, allora che borsa sia? Eleonora Micheli, Radio Colli, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora Eleonora, partiamo subito dalle banche italiane, che sono quelle che hanno fatto la differenza sull'indice, e da Banca Intesa San Paolo, che al terzo giorno di un aumento del capitale importantissimo, 5 miliardi, e oggi ha preso il volo, più 5,1. Esatto, va detto che il movimento è corale in tutta Europa, il sottoindice europeo delle banche è il migliore del vecchio continente, più 2,34% il sottoindice, la performance del sottoindice. Piazza Affari ovviamente ha fatto meglio delle altre banche, visto che delle altre borse, visto che le banche pesano di più sull'indice milanese. Come hai notato tu, Intesa è stata la migliore, più 5%, nonostante vada avanti l'aumento di capitale. Si tratta sicuramente di un rimbalzo. Ieri ricordiamo che i titoli bancari avevano fatto particolarmente male sulla scorta del giudizio dato da Moody's sulle banche della Gran Bretagna e su quello di Standard & Poor's su quattro banche italiane. E gli investitori scommettono che magari nei prossimi giorni, anche nel corso del G8, emergano notizie positive sullo stato dell'arte, soprattutto della posizione finanziaria di alcuni paesi. Si scommette appunto quindi su una visione più positiva, e ne beneficerebbero per prime appunto le banche, che invece nei giorni scorsi hanno sofferto di più. Tra l'altro anche UbiBanca va molto bene, più 4%, Popolare di Milano più 3,90%, appunto sulla scia del tuo ragionamento, Unicredito più 2,70%, Banco Popolare più 2,5%, Mediobanca più 1,80%, Monte dei Paschi più 1,70%, e mi fermerei qua. Fondiaria più 1,1%. Prismian, titolo va bene, più 1,47%. Sul fronte opposto invece Finmeccanica, sia come Finmeccanica sia come Ansaldo STS, meno 0,90 Ansaldo STS, meno 0,40 Finmeccanica. Quindi Prismian e Finmeccanica. Sì, Prismian oggi è stata premiata sin dalle prime battute, anzi a dire la verità andava un po' meglio questa mattina, comunque ha chiuso con un rialzo all'1,47%, in quanto ha annunciato di aver siglato un contratto da 175 milioni di dollari per sviluppare il collegamento elettrico sia sottomarino che terrestre tra New York City e il New Jersey. Quindi è un contratto molto importante che ha incoraggiato ovviamente gli ordini in acquisto. Per quanto riguarda Finmeccanica, ha sofferto in verità nel pomeriggio, ha anche recuperato durante la seduta, il calo era più consistente. Diciamo, a scatenare gli acquisti è stato un report di una banca d'affari, Goldman Sachs, che tuttavia ha puntato l'indice sulle prospettive dell'azienda, azienda che ha come clienti principali il governo italiano, quello statunitense e quello britannico, tutti i governi che bilanci potrebbero rivedere il budget proprio per la difesa. E quindi appunto sulla scorta di questa prospettiva il titolo alla fine ha sofferto, pur recuperando sul finale. Ancora tra i titoli segnalavamo, oltre alle banche, anche Fiat. Beh, qui pesa in senso positivo la conferma arrivata ieri quando Marchione ha staccato questo mega assegno a Barack Obama, ridando i soldi che il governo americano aveva prestato a Chrysler per traghettarla verso Fiat e mantenerla in vita. Dicevo, la conferma che entro fine anno la Fiat arriverà al 51% di Chrysler. Esatto, innanzitutto è già salita al 46%, da giugno lo stesso Marchione ha detto che Chrysler verrà consolidata nei conti Fiat e poi nel terzo trimestre, quindi comunque entro fine anno, Fiat salirà al 51%. Non solo, ma Sergio Marchione ha anche confermato che è in previsione il progetto di fusione fra Fiat e Chrysler, ha detto che infatti non è razionale tenere due società separate per un costruttore generalista, però ha precisato che la questione non è immediata e non si farà sicuramente nel 2011. La prospettiva però ovviamente ha incoraggiato gli ordini in acquisto e quindi spiega questo balzo in avanti di oltre il 3%. Per quello che riguarda Fiat, devo dire bene anche altri titoli del gruppo, anche se non come in altre sedute, nel senso che il rialzo di Exor è molto più contenuto, più 0,26%, e nel caso di Fiat Industrial, quindi camion e trattori, c'è anche un calo dello 0,38%. Ancora, per quello che riguarda i titoli, oggi abbiamo visto un po' debole essere un po' debole anche ST Microelectronics, che però nel finale ha recuperato. Bene l'andamento, volete sapere di altri titoli, vi do Telecom Italia più 0,90%, gli energetici un po' più al palo oggi, Enel più 0,40%, Autogrill più 0,34%, fra gli altri titoli ecco anche ST Microelectronics più 0,32% nel finale. Migliori e peggiori in assoluto ve li diamo tra un attimo. Eleonora, ST Microelectronics. Sì, ST, come hai detto tu, ha sofferto per gran parte della seduta, a parte appunto aver cambiato direzione sul finale, diciamo ha sofferto insieme un po' a tutto il comparto della tecnologia, che ha risentito del profit warning, ovvero del fatto del monito lanciato da Applied Materials, che ha avvertito che i conti del suo terzo trimestre, quello da maggio a luglio, saranno peggiori delle attese degli analisti e anche delle indicazioni fornite in precedenza dai manager del gruppo. Ancora migliore e peggiore, dicevamo, TAS più 12,9%, IRCE più 8,90%, Pininfarina più 7,90%, Meridiana più 5,40%. Fronte opposto invece, Elica meno 5,80%, Edes meno 5,26%, Eurotech meno 4,50%, Sea Therapeutics meno 4%. Grazie, Leonora Michele, Radio Colle, sono 24 ore. Vicenda Fincantieri, allora, fermo restando che poi chiariremo, insomma, è vero quello che scrivono alcuni oggi anche sui giornali, alcuni commentatori, che la notizia è arrivata un po' come fulmine a ciel sereno. È vero che il gruppo Fincantieri però aveva dato delle anticipazioni in questi giorni, forse, ritorno su un tema, forse un difetto di comunicazione con le parti sociali c'è stato, perlomeno insomma, siamo rimasti tutti un po' sorpresi dall'imminenza di questi 2500 licenziamenti. Comunque, su questo è intervenuto il ministro Sacconi, che ha detto ce ne occupiamo molto i Fincantieri, facciamolo ascoltare, poi vi darò anche alcune reazioni e analisi di altri ministri e di altri esponenti politici. Quando ho seguito da sempre la vicenda Fincantieri, da quando sono emerse le criticità nella società in relazione anche alla caduta soprattutto della domanda, si tratta di operare, lavorare pazientemente per cercare di definire un piano industriale che faccia sopravvivere la società e allo stesso tempo consenta di minimizzare i costi della ristrutturazione. E poi la situazione oggi, corteo alla Spezia e incontro in prefettura, corteo anche ad Ancona, dove le Fincantieri degli stabilimenti non coinvolti in questo momento però dalla ristrutturazione, Di nuovo proteste e tensioni a Castellammare di Stabia, vetrine rotte, serrande giù, i lavoratori che hanno fermato i treni della Circumvesuviana. Un po' di ossigeno a Fincantieri sta arrivando invece dall'ordine di due navi da parte di Carnival, primo gruppo al mondo nel settore delle crociere. Due navi su cui c'è via libera un finanziamento da 830 milioni, lo ha reso noto la Cassa Depositi e Prestiti, che ha riunito oggi il Consiglio di Amministrazione e il cui amministratore delegato Giovanni Conto Tempini ha illustrato appunto il finanziamento da 830 milioni a Carnival. Andiamo sul traffico adesso e poi vediamo se riusciamo a raggiungere il sindaco di Castellammare. Abbiamo anche un'intervista a Grospietro. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti alla disperata ricerca del sindaco di Castellammare di Stabia. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Nel frattempo il nostro, sempre in tema di Fincantieri, il nostro Paolo Piacenza ha raggiunto il presidente di Federtrasporto Gian Maria Grospietro, a cui ha chiesto anche un commento sulla vicenda Fincantieri e soprattutto sulle peculiarità del gruppo cantieristico italiano. Fincantieri, come molte aziende manifatturiere italiane, riceve il buono e il meno buono del sistema paese. Il buono è la ricchezza del sistema di fornitura, la capacità di alimentare con innovazioni e con alto livello qualitativo. E il meno buono sono gli ostacoli ambientali. Per un'azienda che debba lavorare nei cantieri navali significa soprattutto disporre di accessi alla costa e di spazi per poter costruire delle navi in modo efficiente. Ecco, quindi vuol dire che i cantieri che sono stati individuati e proposti per la chiusura sono sostanzialmente inadatti alla realizzazione degli obiettivi progettuali che Fincantieri deve coltivare nei prossimi anni? E questo è un giudizio che lascio all'azienda. Sicuramente Fincantieri ha raccolto l'eredità di molti cantieri navali che hanno avuto origini anche societarie diverse in Italia. Non tutti questi cantieri sono efficienti, non tutti sono in grado di competere con una concorrenza che si è fatta molto dura a livello mondiale, essendosi ridotta la domanda. C'è un limite anche nella capacità di intervento rispetto alle infrastrutture costruttive da parte anche dello Stato, che tra l'altro è il proprietario di Fincantieri? Ma io credo che le difficoltà maggiori non vengono dall'istituzione statuale, ma vengono soprattutto dai poteri locali, perché la disponibilità di spazio dipende da questi ultimi. Lei accennava nel suo intervento sul Sole alla decisione sciagurata di rifiutare le risorse di soggetti privati quando ce n'era l'opportunità. Ora questa occasione è definitivamente persa. C'è stata una finestra favorevole nella quale sembrava che Fincantieri sarebbe stata in grado di reperire capitale di rischio privato, e cioè degli azionisti privati. Questa opportunità non è stata colta. Naturalmente in questo momento i cantieri navali sono in crisi e non è il momento buono per trovare degli azionisti per un settore industriale che attraversa un momento di crisi. Ma a suo avviso come andrà a finire? Rimarremo bloccati dai veti reciproci? Io credo che sia necessario rendersi conto che il paese ha bisogno di rilanciarsi e quindi bisogna mettere ragionevolezza da parte di tutti. Sicuramente è importante che il governo metta a disposizione dei provvedimenti di politica industriale compatibili con le regole europee, ma non si può pretendere che questi provvedimenti e questi strumenti consentano di mantenere in piedi delle capacità produttive laddove queste non sono efficienti, né delle regole di gestione del fattore lavoro che non siano allineate con quelle dei paesi europei. È un richiamo anche ai sindacati questo? Certamente, i cantieri sono una fabbrica nella quale l'automazione può essere impiegata fino a un certo punto, quindi sono largamente dipendenti dal coinvolgimento nella produttività della manodopera. È necessario avviare rapporti virtuosi di relazioni industriali che consentano di dare al cantiere quella flessibilità che è indispensabile in questa industria, perché non è un'industria a cadenza fissa, e che consentano anche di ridurre a livelli fisiologici, e cioè a livelli europei, il fenomeno dell'assenteismo. Allora, noi restiamo in attesa del sindaco di Castellammare, perché ci teneva a parlare, a spiegarci che cosa fare, quanto calda la situazione. Se però non ci risponde al telefono, sindaco Bobbio, noi non sappiamo cosa fare con lei, anche perché lei oggi ha chiesto l'intervento dell'esercito e, insomma, visto che Fincantieri è del governo, si rivolge, diciamo, allo stesso azionista. Ha detto infatti oggi Luigi Bobbio: la situazione a Castellammare di Stabia sta diventando insostenibile. Da questa mattina ci sono in atto azioni sovversive in città, la protesta degli operai deve assolutamente rientrare e restare nei limiti della legalità. Su questo siamo d'accordissimo, l'abbiamo detto ieri, capiamo la disperazione, ma sfasciare un comune non ha nessun senso. E un solo attimo di ritardo potrebbe far arrivare, ha continuato Bobbio, le cose troppo oltre, e se necessario occorre coinvolgere anche l'esercito. Alcuni sms che sono arrivati dopo le dichiarazioni di Grosspietro. Allora, io non lo so, ripeto, non so se c'è stato un problema di comunicazione, non so se il governo fosse avvisato in maniera completa, tutti sono un po' cascati dalle nuvole, e anche la convocazione di urgenza da parte del ministro Romani di sindacati Fincantieri il 3 giugno è sembrata appunto un rimedio di urgenza, non un qualcosa di programmato e ragionato. Non so se il governo sapesse, abbia sottovalutato, se la Fincantieri abbia invece sottovalutato la comunicazione col governo e con le parti sociali. Quello che è certo è che in questa vicenda è piombata come un fulmine a ciel sereno un po' per tutti, a partire da una classe politica, da un governo impegnato anche in un turno amministrativo. Allora, io ho un rispetto per il palinsesto, per i nostri orari, quindi adesso andiamo con il GR e poi andiamo a raccontare la vicenda della Bormioli Rocco e a intervistare il presidente dei commercialisti italiani. Mi dispiace per il sindaco di Castellammare, se vorrà nei prossimi giorni spiegarci le sue ragioni, però precisione e affidabilità. Se dice che vuole intervenire, intervenga. Il GR. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e non posso rispondere ancora ai messaggi. Altri messaggi sulla vicenda della Fincantieri. Il 3 giugno, scusatemi, ripeto, l'incontro tra il ministro, la Fincantieri e anche chiaramente i sindacati. Cambiamo invece tema, perché adesso vorrei parlare, lo faremo anche venerdì, di un investimento che è stato fatto di fondi stranieri in Italia e che ha sostanzialmente riguardato un'impresa italiana molto famosa anche come nome. Il gruppo si chiama, l'azienda si chiama Bormioli Rocco, qualcuno forse se la ricorderà, alla fine degli anni 90 la Banca Popolare di Lodi, guidata da Gian Piero Fiorani, ne assunse il controllo, estromettendo poi la famiglia Bormioli, che era reduce da un passaggio generazionale difficile. Per più di 10 anni questo simbolo del Made in Italy, perché era nata come vetreria a Fidenza nel 1825, è rimasto in mano, nel portafoglio della Popolare di Lodi. Quando esce di scena Fiorani si sono susseguiti vari tentativi di vendita, molti nomi circolati: Zignago, Vetro, il fondo Clessidra, il fondo Vetrarie Meridionali e Euinox. Da venerdì scorso invece l'azienda è passata nelle mani di un fondo di private equity, quindi capitali privati, inglese, si chiama Vision Capital. Vision Capital ha pagato 250 milioni di euro più 110 milioni di debiti per una società che fattura 540 milioni e quindi in questo paese è medio grande, e ha chiuso in utile il 2009. Con il ruolo di amministratore delegato resterà alla guida del gruppo Francesco De Bartolomeis. Il nostro Simone Spezia lo ha incontrato proprio in fabbrica. De Bartolomeis ha guidato la Bormioli Rocco in questi ultimi 5 anni. Allora ascoltiamo. Siamo a Bergantino, in provincia di Rovigo, il pieno distretto delle giostre. In realtà siamo in una vetreria, in una fabbrica dove l'unica al mondo in realtà dove vengono fatti solamente contenitori in vetro per medicinali, ed è della Bormioli Rocco. Bormioli Rocco che nei giorni scorsi è passata di mano, e siamo con l'amministratore delegato Francesco De Bartolomeis. Allora, ci può dare qualche termine dell'operazione innanzitutto? Ma io sono colui che è stato comprato, quindi queste dichiarazioni non spettano evidentemente a me, ma agli azionisti, il mio vecchio azionista che ha ceduto e l'azionista che ha comprato. Quello che posso dire invece è che, dovendo la banca cedere la Bormioli, perché non è un suo asset strategico, per la banca deve fare la banca, anche se devo ringraziare moltissimo Pierfrancesco Saviotti e tutti i miei azionisti che mi hanno sempre lasciato libero di lavorare e hanno fatto crescere questa azienda così come lei vede oggi. Io ho appoggiato la causa di Vision Capital, perché Vision Capital è un fondo che sin dall'inizio si è sempre manifestata molto fiduciosa e confidente nella Bormioli, nelle sue tecnologie, nel suo management e nei suoi mercati. E ho capito che ha grosso interesse a far crescere l'azienda, a non fare un mordi e fuggi, ma a valorizzarla in maniera ragionevole e soprattutto con una cultura di fondo industriale. Allora, è chiaro che rimanendo lei amministratore delegato non le potremo far domande sul fatto se sia soddisfatto oppure no che questa azienda passi in mani straniere. Quello che le possiamo chiedere è se vi è mai arrivata una qualche offerta da italiani. Ma mi lasci pensare, mi riesce molto difficile. Qualcosa c'è stata, non direttamente a me, ma evidentemente penso che volessero regalata l'azienda, e che mi sembra abbastanza impossibile. Condizioni dell'azienda al momento? Condizioni in termini finanziari ed economici? L'azienda è un'azienda tutto molto sana, perché abbiamo fatto nel 2010 534 milioni di fatturato con un EBITDA dell'85%, avevamo la posizione finanziaria netta che era all'inizio dell'anno a 140, abbiamo chiuso a poco più di 107, nel primo trimestre continuiamo a migliorare, la posizione finanziaria continua ad abbassarsi. Abbiamo grossi progetti di investimento che non saranno diretti non a questa fabbrica ma ad altri stabilimenti. Stiamo innovando e cambiando anche molto le strategie di marketing di mercato che dovrebbero portarci ulteriori giovamenti. Non manca l'entusiasmo per il nostro lavoro. Ipotesi di acquisizioni? Ce ne sono, alcune le abbiamo perse in passato perché evidentemente la banca aveva come mira quella di cedere l'azienda e non abbiamo avuto la possibilità. Però abbiamo alcune idee, non correremo mai, faremo acquisizioni che porteranno certamente ad aumenti di fatturati ma anche di margini. Quotazione? Ma io penso che ci possa essere una way out in borsa, la trovo assolutamente ragionevole. Questo è il mio pensiero però. Questa quindi l'intervista del nostro Simone Spezia a Francesco De Bartolomeis. Adesso il traffico e poi parliamo di fisco, perché oggi c'è e si sta tenendo l'assemblea annuale del Consiglio Nazionale dei Commercialisti Italiani. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte di Focus Economia. Dicevamo che oggi a Roma si sta tenendo l'assemblea annuale del Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili, sono presenti il ministro Alfano, Sacconi, Meloni, i rappresentanti dell'opposizione Rutelli e Fassina. Siamo in collegamento col presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Claudio Sicilotti. Buonasera. Buonasera a lei e chi ci ascolta. Mi faccia capire quella che è la vostra posizione, le tesi, come si direbbe, perché ci troviamo in un periodo in cui da un lato tutti gli indicatori confermano in Italia un'evasione record, un sommerso che è oltre il 20% e che secondo il Centro Studi di Confindustria bruscamente ha aumentato nel 2009, arrivando oltre il 20% del PIL, oltre il 27% in realtà se non si considera la pubblica amministrazione, e al sud siamo a livelli doppi, cioè al sud viaggia intorno al 40%. Il mancato gettito è a livelli intorno ai 100 miliardi, 200 miliardi stimato invece l'importo complessivo di quanto evaso. Dall'altro abbiamo avuto la rivolta contro Equitalia, le proteste, le aggressioni da condannare sempre e comunque, le proteste a Cagliari, lo stesso ministro Tremonti, lo abbiamo raccontato la scorsa settimana, che avvisa l'Agenzia delle Entrate, che lui controlla, occorre un sistema più vicino alla realtà dei cittadini, ci sono troppe ganasce fiscali, si riferisce chiaramente al modo in cui il fisco si rifà su chi non ha pagato e quindi ai sequestri, soprattutto i pignoramenti. Allora, come si coniuga, secondo voi, lo stretto sentiero, per dirla con un po' di retorica, tra un'evasione record e però anche forme di vessazione fiscale? Guardi, intanto noi credo almeno 5 mesi fa avevamo paventato questo rischio. Avevamo paventato il rischio con una frase ad effetto: qui si scambia l'efficienza con la ferocia, cioè lamentando sostanzialmente che in questo 2011, ed era la fine del 2010, sarebbero entrate in vigore delle norme che avrebbero intensificato la riscossione, ma senza introdurre gli adeguati contrappesi a favore del contribuente. Una stretta alle compensazioni d'imposta senza permettere, d'altro canto, la compensazione dei debiti nei confronti della pubblica amministrazione per imposte, con i crediti certificati verso quelle amministrazioni che non onorano i propri debiti. Avevamo detto: attenzione, ci sarà un avviso d'accertamento immediatamente esecutivo, ma non sono stati fatti gli interventi necessari sul versante della giustizia tributaria per permettere a chi ha ragione di sentirsi dire che ce l'ha prima che una procedura esecutiva non gli venga a togliere quello che ingiustamente gli viene richiesto. Queste cose le avevamo dette, non le avevamo dette con le parole addirittura più dure che hanno usato sia il ministro Tremonti, che ha parlato di oppressione fiscale, e sia il direttore dell'Agenzia delle Entrate, che ha parlato addirittura di controlli vessatori. Quindi credo che siamo stati facili profeti. Per quanto riguarda il tema dell'evasione fiscale, grosso problema del nostro paese, io posso dire che noi siamo i secondi al mondo dopo la Grecia, che sicuramente siamo al di sopra del 20% del PIL. Questo è sempre difficile, non c'è una statistica ovviamente perfetta, ma secondo tutti gli studi internazionali siamo al secondo posto e siamo al di sopra del 20% del PIL. Io credo che dobbiamo fare una riflessione collettiva. L'evasione dipende dal livello del prelievo, dall'efficacia dei controlli e dalla certezza delle regole. Più c'è alto il livello del prelievo e più c'è evasione, meno controlli ci sono e più c'è evasione, più ci sono sanatorie in giro e più c'è evasione. Noi avevamo coniato un'espressione: noi vogliamo un fisco leggero con sanzioni pesanti. Fisco leggero significa possibile nel peso delle aliquote e possibile nel peso degli adempimenti, ma assolutamente inflessibile per chi sgarra. Fino ad oggi abbiamo assistito, sì, all'esatto contrario. Cioè, lei dice un fisco che non riesce, con sanzioni talvolta aleatorie, non sempre, o comunque talvolta sanate. Beh, abbiamo assistito, se permette Sicigliotti, a un fisco pesante su chi conosce. Perché quando parliamo un po' di sommerso, parliamo di interi settori dell'economia al sud e in parte minore anche al centro-nord, che sono sconosciuti al fisco, cioè l'evasione è totale, o è così bassa la quota dichiarata da risultare un'evasione totale. Mentre quello che notiamo è che sulle imprese conosciute, sui professionisti conosciuti, sui lavoratori autonomi conosciuti, c'è stato un po' di accanimento. Ma guardi, 3 anni fa, o forse 4, abbiamo parlato: rispolveriamo il redditometro. Io francamente non conosco un evasore fiscale che rinunci a esibire i segni esteriori della propria agiatezza. Gli evasori fiscali hanno le macchine di grossa cilindrata, hanno le barche, hanno le ville, perché sennò che vale la pena fare l'evasore fiscale se devo vivere a pane e cipolla? Allora non è così difficile. Oddio, Arpagone ci riusciva, però. Arpagone. Ma solo lui, però non se la godeva. La maggioranza delle persone ama anche godersi la vita in questo paese. E allora non penso che sia così difficile. C'è stato detto 4 anni fa che lo strumento principe erano gli studi di settore. Non abbiamo mai creduto a questo. Cioè, pensiamo che sia sicuramente uno strumento utile, ma non lo strumento principe, anche perché è un elemento di radicalizzazione e della lotta politica, indica della lotta fiscale, perché indica nei piccoli e negli autonomi i soggetti che evadono, e non è vero. Questo è un paese dove evade chi può, non esattamente chi ha una professione a fare. Evade chi può, sì. Tra l'altro, Arpagone, ossia l'avaro di Molière, era particolarmente avaro, ma sono d'accordo con lei che se vi fosse una capacità di rilevare, non ho capito che fine abbia fatto quel tentativo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di fotografare le barche, di fotografare le macchine. Qui vedo già dei messaggi, ecco, sarebbe la dittatura fiscale. Scusatemi, però se non vogliamo che ci sia un fisco che da un lato ti tassa fino al 54% come pressione effettiva, con pratiche definite anche eccessive dallo stesso ministro che lo coordina, le ganasce fiscali, e quindi che manda a gambe all'aria interi imprenditori pignorando immobili, pignorando stabilimenti, macchinari e quant'altro. E dall'altro non vogliamo continuare a vedere le dichiarazioni dei redditi in cui solo 13.000 lavoratori autonomi, quindi se leviamo i dipendenti e i pensionati, dichiarano più di 200.000 euro lordi l'anno in questo paese, e solo 120.000 lavoratori autonomi dichiarano più di 100.000 euro lordi l'anno, siamo tutti d'accordo che è ridicolo. Allora forse da qualche parte bisognerà iniziare. Che fine hanno fatto, Siciliotti, quei controlli un po' più mirati su chi appunto, proprio perché evade, ha uno stile di vita che poi non riesce a dimostrare fiscalmente? Ma guardi, che fine hanno fatto non lo so. E so che però ancora il nuovo modello di redditometro, più volte annunciato, non è uscito. Credo che sia quella la frontiera, perché per quanto possa essere efficiente la macchina dei controlli, sono talmente tanti i soggetti da controllare che non arriveremo mai tramite i controlli. Qui ci vuole uno strumento di massa come il redditometro, facile da comprendere, con indicatori chiari, che sono quelli che le ho detto, perché le manifestazioni di ricchezza sono quelle: gli automezzi, le imbarcazioni, le case. Non c'è molto altro, oltre che ci saranno anche le palestre, tutte queste cose, le scuole private che sono state dette, ma sostanzialmente sono le prime tre cose. E c'è bisogno di una volontà concreta di andare in quella direzione. Poi probabilmente anche ripensare ad alcune cose. Forse criteri di facoltatività e di premialità per chi in qualche modo si identifica nel momento in cui fa un acquisto. Mi spiego: se invece di imporre al commerciante di segnalare coloro che hanno acquistato, se l'acquirente si segnala ottenendo il beneficio di una deducibilità di quell'acquisto, fosse un criterio primario piuttosto che un criterio sanzionatorio, potrebbe essere più efficiente. Come io credo che dopo il redditometro vada ripescata una vera certificazione tributaria, e siamo 112.000 professionisti, noi commercialisti, facci fare dei controlli mirati sotto la nostra responsabilità, che possano dare al contribuente ma poi pagate voi, effetti. Poi pagate, sì, voi. Perché no? È una sfida che dobbiamo accettare. Paghiamo noi, evidentemente, se commettiamo degli atti fraudolenti. No, nel senso che lei sa che l'accusa delle volte è che il commercialista è il primo a aiutare, diciamo, l'evasore. Per cui lei dice... Ma sì, ma esiste anche questo. Però credo che dobbiamo creare una nuova mentalità rispetto alla quale noi siamo pronti a farlo. Cioè, io non credo che solo coi controlli ci vuole uno strumento di massa, e lo strumento di massa è il cosiddetto redditometro, spesometro, insomma... diciamo un riscontro tra le spese concretamente effettuate e i redditi dichiarati, che sia trasversale, che possano capire tutti. Nel momento in cui Tizio va in galera e aveva due case, due barche, due Ferrari, e dichiarava 10.000 euro, il giudizio sociale è evidente. Io credo che sia giusto questo, però credo anche che ci voglia una responsabilizzazione di soggetti terzi che possano in qualche modo attestare i criteri di formazione degli imponibili dichiarati dei loro contribuenti. Mi piacerebbe pensare da responsabile nei confronti del cliente a responsabile del cliente. È un passo che si può fare, che si deve fare. Non vedo come altrimenti si possa uscire da una situazione nella quale oggi noi dobbiamo sostanzialmente contenere la spesa e dobbiamo recuperare l'evasione fiscale. Non c'è una delle due cose che va fatta. Quindi, se ho ben capito, per concludere, lei dice redditometro, concludete l'iter per arrivare al redditometro, cioè andare a misurare i redditi e non solo il reddito da lavoro, ma il reddito che tu poi esprimi anche nei consumi e negli acquisti, e chiedete il nostro aiuto nel dare una specie di certificazione per cui il commercialista ma potrebbe ha essere la... secondo me, guardi, noi abbiamo dall'anno scorso una legge dell'anno scorso con confini di applicabilità non del tutto certi, un obbligo di revisione legale dei conti, che è molto esteso e generalizzato. Ormai solo le piccole SRL di minime dimensioni sfuggono a questo tipo di controllo. Questo tipo di controllo oggi si traduce in maggiori adempimenti per i soggetti che ne sono incisi e evidentemente in maggiori costi. La risposta è: a che utilità ne ho da avere conti affidabili e trasparenti? Proviamo a dargli una utilità fiscale. Sì, mi dica solo una cosa però, lei è d'accordo invece con chi dice che bisognerebbe spostare la tassazione più dal reddito prodotto, quindi dal lavoro, al patrimonio, quindi evocando il fondo patrimoniale? Allora, no, allora distinguiamo tra patrimonio e frutti del patrimonio. Di andare a toccare il patrimonio non credo che ce ne sia nessun bisogno, nessuna necessità. Di immaginare che i frutti del patrimonio possano godere di una tassazione meno sfacciatamente agevolata di quella di cui godono oggi, credo che sia il passo da fare. Soprattutto perché noi dobbiamo incoraggiare, il Censis ci dice che abbiamo perso 2 milioni di giovani, qualcun altro ci dice che è scomparsa la classe media, ci sarà una motivazione a questo. E allora probabilmente, siccome i giovani e la classe media non hanno grandi patrimoni, ma hanno una forza lavoro, forse bisogna impiegare quel di più che viene preso a chi possiede, destinandolo non a finanziare la spesa, destinandolo a sgravi fiscali a favore di chi ha di meno. Io pensare a una tassazione agevolata in ragione dell'età anagrafica penso che sarebbe una cosa coraggiosa. Quindi lei dice non sul patrimonio in sé, ma sui guadagni da patrimonio. Chiarisco a tutti, se uno investe potremmo iniziare dalla tassazione sulle rente finanziarie, anche lì avendo l'accortezza di non farla per tutti, ma farla solo per chi tiene certi investimenti finanziari per un anno, poniamo, o per 6 mesi o per un anno e mezzo, cioè andando a colpire solo chi ci guadagna, chi si specula, non chi mette i soldi da parte per proteggere dall'inflazione, no? Esattamente così. Grazie a Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. E siamo veramente in chiusura. Focus Economia termina qui. Noi ci risentiamo domani alle 17. Avremo una lunga pagina sull'assemblea annuale della Confindustria. Da Sebastiano Barisoni, intanto l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.